L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddi, 8 minuti dopo le 12 in diretta su Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa delle storie, l'Europa delle persone, delle possibilità e delle opportunità. E un'Europa che insomma ci piace narrare anche nei suoi elementi virtuosi senza nascondere tutti e i tanti punti critici. L'altra Europa at radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica. Se volete contattare la nostra redazione, poi ci sono i social, @ Federico Taddia, i miei account personali, Twitter e Facebook. Lì troverete tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando in questa bacheca virtuale che aggiorniamo minuto per minuto. E poi radio24.it, da lì i contributi extra, da lì potrete riascoltare la puntata e scaricare il podcast. Queste sono le istruzioni, ora si parte, ogni settimana un viaggio, oggi è doveroso partire da Manchester. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving car. Oh, please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome. 23 morti, incluso il kamikaze, 122 feriti, questi sono i numeri dell'attentato avvenuto a Manchester il 22 maggio all'interno dell'arena durante, al termine del concerto di Ariana Grande, un atto terroristico che al di là dei numeri, dei tanti detenuti, ha colpito una generazione, perché ha colpito un'arena dove c'erano bambini, dove c'erano adolescenti, dove c'erano famiglie, dove c'erano ragazzi probabilmente al loro primo concerto. Hanno ucciso il futuro, hanno ucciso il sogno. Queste un po' delle dichiarazioni che abbiamo sentito in questi giorni. Quindi volevamo porre l'attenzione proprio a quel pubblico, a quella fascia di età, agli adolescenti in particolare. E lo facciamo con Marco Liviero, che è docente di letteratura inglese all'Eton College a Londra e quindi persona che quotidianamente ha a che fare con gli adolescenti. Ciao Marco, ben ritrovato qui all'Altra Europa. Ciao Federico, ben trovato. Allora Marco, sono passati un po' di giorni, non tanti, ovviamente. Immagino che tu abbia parlato con i tuoi alunni e non solo. Quali sono le sensazioni che hai raccolto, che hai elaborato, le riflessioni che avete fatto insieme? Parlando con i ragazzi, come tu sai, io insegno a ragazzi che hanno dai 13 ai 18 anni, una cosa che mi ha colpito è che la maggior parte di loro è nata dopo l'11 settembre, dopo quindi quell'evento che ha un po' diviso la storia. Una nuova epoca per quanto riguarda la nostra relazione nei confronti del terrorismo, di questa nuova stranissima guerra che ci troviamo a combattere. E una cosa che uno di questi ragazzi, tra l'altro un ragazzo musulmano, mi ha detto, e che sembra molto bella, è che sono questi momenti in cui in realtà bisogna non solo piangere i morti, questo è inevitabile, ma celebrare la vita, celebrare il meglio dei valori occidentali. Quindi ho trovato in loro una voglia di combattere, che forse viene dal fatto che loro si sono trovati a convivere con questo strano mondo da quando sono nati. Certo. Non andranno ai concerti? Andranno ancora ai concerti? Hai fatto questa domanda molto diretta, molto secca, molto istintiva. C'è paura adesso? L'ho fatta assolutamente. Certo, anche perché come genitore, anche mio figlio è molto piccolo, però si viene a pensarlo, no? Cosa faresti per proteggere i tuoi figli in questo caso? Ma dato che queste persone vogliono minare, distruggere il nostro stile di vita, forse uno dei modi di reagire è dimostrargli che niente deve cambiare, non possono fermarci, bisogna continuare a andare ai concerti, andare nei bar, andare fuori, a viaggiare, dimostrare che siamo più forti di loro. Certo. E questa è la sensazione che provo quando parlo ai ragazzi, che sono senz'altro molto determinati a non farsi bloccare nella loro gioventù, come dicevo, nella loro celebrazione di essere giovani, di essere vivi. Nell'altra faccia della realtà, che è la rete, il virtuale, la parola odio forse è stata la parola più utilizzata in queste giornate. Odio che hai colto, che hai visto anche invece tra i ragazzi come sentimento? No, a dirti la verità no. Quello che ho notato è che spesso si nota, mi pare ne avessimo parlato già l'ultima volta che abbiamo parlato di terrorismo in Inghilterra, si nota una specie di orgoglio, che è un orgoglio però secondo me molto positivo, molto salutare. Manchester poi è una città strana, è una città austera, solida, come i mattoni rossi dei suoi edifici, una città vittoriana, orgogliosa, una specie di Milano senza nebbia ma più piovosa. E reagirà come ha sempre fatto anche sotto le bombe dei tedeschi nella seconda guerra mondiale, non facendo finta che niente sia successo, questo sarebbe stupido, ma dimostrando che siamo più forti. C'è una storia bellissima, mi ricordo, che ho sentito durante la seconda guerra mondiale, quando l'East End di Londra, la parte più popolare, diciamo, è stata distrutta dalle bombe tedesche. Questo piccolo negozietto di barbiere, tra le macerie, aveva messo fuori un cartello dicendo open for business, no? Continuava a lavorare, continuava comunque a fare il suo lavoro e a tagliare i capelli alla gente. E una foto che è diventata un simbolo della resilienza, della resistenza degli inglesi sotto le bombe. In realtà poi si è scoperto che questo barbiere si chiamava Salvatore Esposito ed era un immigrato italiano, quindi certo, in teoria un nemico al tempo. Storia interessante, no? Che mostra come l'orgoglio va al di là delle frontiere. Assolutamente. Marco, un'ultima domanda che richiama le tue competenze, che richiama la tua storia. In giornate, in momenti come questo, si può trovare rifugio, si può trovare nuovo ossigeno nella letteratura? Ma certamente la letteratura riflette la vita. Lo fa senza sdolcinamenti. E Amleto dice che dobbiamo guardarci nello specchio della vita, è questo che fa il teatro, la letteratura fa la stessa cosa, ci vuole coraggio per farlo, no? Però sì, è un modo per capire chi siamo e risolvere i nostri problemi e ricordarci di qual è la nostra storia. Senza storia non abbiamo nessun tipo di futuro. Trump ha chiamato questi terroristi dei losers, no? Chiamiamoli gli sconfitti. Dire che l'intolleranza non va tollerata mai è una cosa che è importante, e la letteratura tra l'altro ci insegna ad essere meno intolleranti, perché ti fa vivere altre vite, ti fa capire che ci sono altri punti di vista, una cosa che questi terroristi chiaramente non possono accettare. Un grazie davvero a Marco Oliviero, docente di letteratura inglese all'Eton College di Londra. Ciao Marco, grazie come sempre. Grazie, al prossimo appuntamento. Ciao, buon sabato. Noi ci fermiamo, un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. SVE in Spagna contro l'esclusione sociale. Ti piacerebbe fare un'esperienza all'estero nel campo del sociale? Traperos, associazione spagnola che si occupa di assistere le persone a rischio di esclusione sociale, è alla ricerca di un candidato per un progetto annuale di servizio volontario europeo a Murcia. Obiettivo dell'associazione è lavorare per il recupero personale e professionale di individui a rischio esclusione, quali senza tetto, prigionieri ed ex prigionieri, tossicodipendenti, single parents e disoccupati. I volontari forniranno un supporto nelle mansioni di accoglienza dei nuovi arrivati, di housing, training occupazionale e preimpiego, iniziative di inserimento sociale e simili. Vitto, alloggio e viaggio saranno rimborsati. Invia la tua candidatura entro il 31 maggio, seguendo le istruzioni riportate sul sito scambieuropei.info. L'altra Europa. Spostiamo ora verso Taormina, dove, come ben sapete, si sta tenendo il G7. Lo facciamo per per fare un piccolo focus, un piccolo approfondimento sul G7 visto dagli occhi della Commissione europea. E il presidente Juncker con tutto il suo gabinetto è lì presente ai lavori e cerchiamo di capire cosa l'Europa ha chiesto e sta chiedendo a questo G7. Lo facciamo con il nostro inviato proprio a Taormina, Sergio Nava, esperto tra l'altro di questioni europee. Ciao Sergio. Ciao Federico. Ore frenetiche per gli Sherpa, per i vari primi ministri, anche per i giornalisti, credo, vero? Perché ci si sta avviando un po' alla conclusione, si sta cercando di fare una sintesi di questo G7. Sì, diciamo che al momento è ancora tutto abbastanza incerto, nel senso è anche interessante perché non più tardi di mezz'ora fa sono stato al briefing dell'Unione Europea, non c'erano né Juncker né Tusk come ieri, però c'erano i portavoce e chiaramente le fonti europee si sono dette abbastanza contente su uno dei temi, per quanto riguarda almeno i risultati sul tema della migrazione, perché dicono sostanzialmente sono anche le nostre posizioni un approccio, diciamo, sia a livello globale di aiuto e cooperazione con i paesi di origine e di transito, che è quello su cui spinge la presidenza italiana del G7, però dicono anche difesa, insomma, protezione, difesa ai confini esterni dall'immigrazione illegale, che è quello su cui spinge un po' di più invece gli Stati Uniti con Donald Trump, quindi dicono sostanzialmente sull'immigrazione va bene così, mentre invece sempre le fonti europee dicevano che restano ancora aperti i temi, i capitoli del commercio e della Russia, delle sanzioni alla Russia, del rapporto con la Russia dopo l'annessione della Crimea, anche se proprio sul commercio pochissimi minuti fa altre fonti della G7 dicono che gli Stati Uniti avrebbero accettato che nella dichiarazione finale venga inserita l'espressione lotta al protezionismo, un dettaglio interessante considerato che appunto invece certo. Proprio Donald Trump sembrava spingere almeno all'inizio della sua presidenza sul protezionismo, mentre sul clima, devo dire, la cosa più bizzarra forse, Federico, è sul clima, perché proprio le fonti europee hanno detto sul clima c'è un accordo di massima, un accordo sull'implementazione degli accordi dell'intesa di Parigi, però lasciamo agli Stati Uniti prendersi il tempo che vogliono per dire sì o no, se restano o non restano negli accordi del clima di Parigi. A quel punto io ho chiesto, ma qualcuno ha chiesto a Donald Trump quando deciderà? Infatti. Quando deciderà se restano o non restano all'interno del framework dell'accordo dell'intesa di Parigi? La risposta di queste fonti europee è stata no, non l'ha chiesto nessuno, devo dire. Non mi ha molto convinto, però. No, direi di no. Questo è un compromesso un po' labile. Sergio, ma facci chiarezza su una cosa. Rispetto al G7, la Commissione europea cos'è? Un ospite, un ottavo, un osservatore? Cioè, come funziona appunto anche la dinamica? Nel senso che lì diciamo che partecipa a pieno titolo. Effettivamente non è tra i paesi, però perché non è un paese. Ecco. Ovvio. G7, però è inserita l'Europa con i suoi rappresentanti. E poi sono Donald Tusk per il Consiglio europeo e Juncker per la Commissione europea, partecipa a pieno titolo ai lavori, non è, diciamo, un soggetto aggiunto come è potuto essere questa mattina per i paesi africani o per il Fondo monetario internazionale o per altre istituzioni internazionali che si sono aggiunte questa mattina. È di fatto una, chiaramente, diciamo anche la verità, non ha forse lo stesso peso che hanno gli stati nazionali a livello proprio di peso specifico, però rappresenta comunque l'Europa in sé e quindi comunque partecipa e porta anche le sue posizioni nei lavori. Non è forse l'attore principale, no. Perché insomma Francia, Germania, UK, certo. Italia, insomma sono comunque... Però, però c'è, insomma, c'è. Grazie ancora a Sergio Nava per questo contributo. E sarai poi, insomma, in onda durante i prossimi GR con tutti gli aggiornamenti del caso di questo G7 che si sta tenendo e chiudendo a Taormina. Grazie Sergio, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao Federico. Europost-it. Digital Design Days 2017. A tutti gli appassionati di digitale. In occasione dei Digital Design Days, in programma a Milano dal 1 al 3 giugno, la rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo organizza un panel gratuito dedicato a giovani e studenti che tra poco si affacceranno al mondo del lavoro. A parlare ai ragazzi, giovani oratori d'eccezione, tutti under 30, che hanno già all'attivo brillanti carriere in campo digitale e tecnologico. La tavola rotonda si terrà il 1 giugno alle 9.30 presso la Fabbrica del Vapore di Milano. Per accedere all'evento è necessario registrarsi sul sito ddd.it. Non è un G7 alternativo, però è un appuntamento importante al di là dei simboli. È il 28enne Europa Festival, la sua prima edizione è promosso dall'Associazione La Nuova Europa e si sta tenendo proprio in queste giornate sull'isola di Ventotene. L'evento riunisce 10 studenti italiani, 10 tedeschi, 10 francesi. L'obiettivo è quello di redigere una bozza di nuova dichiarazione di Ventotene, una sorta di aggiornamento. Giornate quindi di intenso lavoro per questi studenti, sono ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Con noi ci sono Elena Massarelli del Liceo Pasteur di Roma. Ciao Elena. Ciao, buongiorno. Buongiorno. E Anastasia Sicheva del Liceo Mamiani, sempre di Roma. Ciao Anastasia. Salve. Ciao. Allora Elena, cosa avete fatto fino ad ora? E vedete il traguardo? Vedete l'obiettivo lì a un passo? Si riesce a redigere questo nuovo manifesto di Ventotene? Sì, fino ad ora abbiamo scritto i vari articoli con l'introduzione e proprio adesso stavamo ancora lavorando sugli articoli, stavamo votando vari punti e si vede il traguardo perché comunque abbiamo quasi concluso. Uh-huh. Elena, punti di vista molto diversi tra voi e i vostri compagni tedeschi, compagni francesi, o c'era comunque un percorso comune? No, abbiamo notato un percorso comune, però nello stesso tempo in alcuni casi c'erano delle opinioni differenti e abbiamo discusso per un po' di tempo riguardo il concetto anche di democrazia diretta, perché per esempio per alcuni tedeschi non era corretto eleggere direttamente i rappresentanti, mentre secondo alcuni studenti questa sarebbe stata una soluzione migliore. Quindi sì, c'è comunque un percorso comune, ma nello stesso tempo ci sono opinioni differenti riguardo alcuni punti. Certo. Anastasia, ma rispetto al manifesto originario di Ventotene, è più un aggiornamento di linguaggio e di forma o sono proprio contenuti nuovi? Sinceramente cercavamo di aggiornarlo proprio il manifesto e rappresentare l'Europa secondo come la vedono i giovani di oggi, però diciamo che abbiamo avuto molte difficoltà a scegliere il linguaggio, la forma. Quindi diciamo che il manifesto quale stiamo elaborando adesso è elaborato sia nella forma che anche in alcuni contenuti. Abbiamo riportato soluzioni che vedono i giovani per cambiare l'Europa, diciamo. Mm-hmm. È difficile uscire dal politichese? Cosa intende per politichese? Cosa? Cosa intende per questa cosa? No, nel senso c'è il rischio di essere un po' troppo formali e quindi di non riuscire a trasmettere insomma quella che vuole essere un'Europa nuova, un'Europa anche probabilmente più vicina ai cittadini, anche nel linguaggio proprio. Sì, è abbastanza difficile perché diciamo che questa esperienza che mi ha fatto capire quanto è difficile capirci tra di noi studenti di diversi paesi con mentalità diversa e metterci anche d'accordo su alcuni, diciamo, sulla visione dell'Europa come la vediamo noi, perché comunque c'è la situazione diversa in Germania, in Francia, in Italia. Comunque nonostante tutto cercavamo di trovare un'unione tra noi due, tra i gruppi, certo. E E non è stato facile, però comunque in parte ci siamo riusciti, secondo me. Uh-huh. Elena, non avete solo lavorato, vero? È stato un festival, quindi sono state anche, credo, occasioni di incontro, forse spettacoli. Credo abbiate visitato anche il carcere di Santo Stefano, o forse non siete ancora andate? No. Non abbiamo visitato il carcere di Santo Stefano perché è chiuso, quindi non si può visitare. Okay. Però abbiamo visitato l'isola, che è molto bella. Insomma, qui una forte integrazione tra di voi. E adesso cosa succederà, Elena? Quali sono i prossimi passaggi? Allora, stasera presenteremo il documento, la dichiarazione alla Boldrini. Sì. E quindi successivamente poi questa dichiarazione entrerà anche nel Parlamento europeo. Mm-hmm. E certo, quindi insomma c'è la consegna del documento ai decisori politici. Grazie a voi Elena, grazie a Anastasia, un grazie a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che stanno partecipando a questo 28enne Europa Festival. Buon lavoro, ciao! Grazie, arrivederci. Noi ci fermiamo, un euro post-it, la pubblicità poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Borse di stage all'estero per studenti universitari con Universities for EU Projects. A tutti gli universitari e i neolaureati. SEND, Agenzia per il Lavoro e la Mobilità Internazionale, in consorzio con European Generation e in collaborazione con 12 Atenei italiani in qualità di enti invianti, offre tirocini nel campo dell'europrogettazione in oltre 250 aziende europee. Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti al primo, al secondo o al terzo ciclo di studi presso le università del consorzio e che soddisfino i criteri descritti nel bando. I tirocini andranno dal 23 giugno 2017 al 31 maggio 2018. Per consultare l'elenco delle università aderenti e conoscere i requisiti di accesso, visitate il sito scambieuropei.info. C'è tempo fino al 9 giugno. L'altra Europa. As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around. It makes me think long ago, but somewhere there I lost my way. Everyone walks the same, expecting me to step the narrow path they've laid. They claim to walk unafraid. I'll be clumsy instead. Hold me, love me, or leave me high. Ancora buona è sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Chiocciola Federico Taddia, Twitter e Facebook per avere gli aggiornamenti in tempo reale degli argomenti a cui stiamo parlando. Adesso andiamo a camminare, lo facciamo con la Repubblica Nomade, un'associazione che si propone di fare del cammino proprio la prefigurazione di un diverso modo di vivere. Ogni anno dei cammini che coinvolgono più persone, proprio per mettere al centro l'incontro, la contaminazione culturale, nuovi stili di vita, ma soprattutto nuovi punti di vista. Il cammino di quest'anno è partito da Parigi, la rotta è Parigi-Berlino, proprio per affrontare la strada di questo asse tra queste due capitali, per ragionare su un'altra Europa, no? Per gli Stati Uniti d'Europa dicono, ma di un'altra Europa. Di tutto questo ne parliamo con Antonio Moresco, scrittore e tra i fondatori dell'associazione Repubblica Nomade. Ben ritrovato Antonio qui all'altra Europa. Buongiorno a voi, grazie. State camminando, dove siete in questo momento? Dunque, noi stiamo camminando tra Homblières-Saint-Quentin e Ribeauville, quindi siamo in Piccardia, camminiamo in mezzo a sterminati campi di avena, di barbabietole, di colza, con proporzioni sterminate, presso paesi molto belli, ma spesso deserti, con nessuna persona in giro. e come ha detto giustamente andiamo da Parigi a Berlino, quindi 1100-1200 chilometri attraverso regioni dove il nostro cammino è anche particolarmente controcorrente, perché insomma sono zone, le peniste, diciamo così, quelle che stiamo attraversando. Un cammino lento, un cammino dove si vanno a cercare le persone, le suggestioni, le storie, un cammino che vuole essere anche una provocazione? Sì, vuole essere una provocazione, nel senso che noi non diciamo le cose solo con le parole, con la testa, ma con questo piccolo miracolo di decine di persone che in modo del tutto radicalmente volontario si sottopongono a questa fatica, ma anche a questa gioia, a questa ebbrezza di fare una cosa che sembra superare i nostri limiti. E quindi sì, noi ci teniamo a dire le cose attraverso questi smisurati cammini, che sono i più lunghi cammini collettivi che siamo stati fatti in Europa, perché un conto uno solo che cammina, un conto 30 persone che vanno da Parigi a Berlino, ecco, queste sono, è una vera e propria avventura, e quando arrivi non sei la stessa persona che è partita. Stati Uniti d'Europa, ma di un'altra Europa. Qual è l'altra Europa che andate a cercare? No, noi abbiamo preso alla lettera il manifesto di Ventotene, di cui molti parlano, eccetera, però senza conoscerlo. Difatti noi in queste sere, a fine tappa, leggiamo anche il manifesto giorno dopo giorno, eccetera. Diciamo che il sogno dei fondatori... che avevano fatto il bilancio di due guerre mondiali sorte sul nostro territorio, avevano immaginato un'Europa con unità federale, nel senso che non mortificasse le diversità dei singoli paesi, ma le moltiplicasse in una dei momenti di forte unità, con l'esercito unico, eccetera. Quindi noi cerchiamo di riprendere quell'idea, oppure c'era nel programma di Altiero Spinelli il fatto che l'economia non dirigeva la politica, ma viceversa, e aveva anche uno sguardo sociale, pur non essendosi separato, diciamo, da posizioni comuniste, eccetera. E noi crediamo che in questo momento, a livello geopolitico, un'Europa, uno Stati Uniti d'Europa sarebbe di questo tipo, sarebbe la prefigurazione anche per il nostro pianeta, che è sempre sull'orlo di guerre tragiche, eccetera. Quindi un continente di paesi che si uniscono non perché il paese più forte ha conquistato militarmente gli altri, ma paesi che si sono fatti la guerra attraverso i secoli, che si uniscono liberamente in uno Stato. Siamo molto lontani da eh sì, quello. Eh sì. RepubblicaNomade.org, questo è il portale per conoscere l'intero progetto, ma è possibile anche unirsi per camminare, per anche solo qualche tappa. RepubblicaNomade@gmail.com è l'indirizzo di posta elettronica per candidarsi. Grazie allora ad Antonio Moresco e buona camminata. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, grazie. Buon sabato. Prego. Ancora l'altra Europa, cambiamo completamente argomento, anche se di unione, di nuova unione si parla. A Firenze è nato ECHO, l'European Children's Hospital Organization, è una rete di ospedali pediatrici, ne parliamo con Alberto Zanobini, che è direttore generale dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Buongiorno Zanobini. Buongiorno, buongiorno a voi. Beh, il Meyer lo conosciamo, insomma, lo conosciamo per la qualità, ovviamente, per la sua storia e anche per essere spesso in prima fila nelle sperimentazioni anche delle attività all'interno con i bambini, e anche in questo caso, insomma, in prima fila protagonista di questa nuova rete che è nata perché? Qual è l'esigenza a cui si vuole rispondere? Sì, intanto grazie di questa opportunità. Già il nome è molto evocativo, no? Una parola, fra l'altro, abbiamo scoperto che in tutte le lingue, anche finniche, significa proprio l'eco, quello che fanno i bambini con le mani per cercare di avere il ritorno della propria voce. E noi vogliamo, con questa nuova organizzazione che è nata a Firenze, ovviamente il Meyer è orgoglioso di aver ospitato l'atto fondativo di questa organizzazione, rappresentare l'eco dei diritti dei bambini alla salute, all'equità dell'accesso alle cure in Europa, nella consapevolezza che gli ospedali pediatrici debbano avere un ruolo chiave, un ruolo proattivo in questa sfera dei diritti alla salute. Quindi i maggiori ospedali pediatrici europei si sono trovati a Firenze per, dopo un anno di preparativi, di istruttoria sulla documentazione, per fondare questa organizzazione, che ha proprio lo scopo di riaffermare quello che riteniamo sia il paradigma di una civiltà, cioè il modo in cui il diritto alla salute dei bambini è trattato, non solo nel senso dell'erogazione di servizi, ma sì, in un approccio anche olistico alla famiglia e alla sofferenza, talvolta alla difficile malattia dei bambini. Il Meyer per ora è l'unico ospedale italiano entrato a far parte di questa rete, ma l'idea è quella anche di scambiarsi buone pratiche, fare proprio progetti comuni, no? Non è solo una formalità, diciamo, questa. Sì, no. Abbiamo già lanciato una serie di azioni comuni che prevedono, alcune sono già in atto, devo dire, per le relazioni che si sono instaurate, di scambio di professionisti, di progetti di ricerca comuni, di azioni anche su temi etici, le nuove frontiere ci pongono le tecnologie, i farmaci, i problemi delle malattie rare, della cronicità. Quindi anche il rapporto poi che vorremmo instaurare a livello europeo proprio sulle politiche e gli indirizzi, sulle nuove frontiere anche etiche che le sfide della medicina pongono. Sì, siamo i primi 7 fondatori, ma l'idea è poi di aprire con un seminario agli altri ospedali pediatrici d'Europa. A Firenze erano già presenti 2 ospedali pediatrici come osservatori, ulteriori 7 che sono Firenze, Parigi, Londra, Dublino e Barcellona, ma erano presenti anche Monaco e Rotterdam, perché diciamo l'ospedale pediatrico può giocare un ruolo chiave anche nello sviluppo delle reti sui territori di azione effettiva per la salute e la prevenzione. Certo, non è solo la malattia, ma è proprio la qualità della vita che viene messa al centro. Sì. Grazie davvero Zanobini, sicuramente ci ritroveremo in una delle prossime puntate dell'Altra Europa per raccontare lo sviluppo di questo progetto. Buon sabato, grazie. Grazie, arrivederci a tutti. www.meyer.it, vi ricordo, il sito dell'ospedale pediatrico Meyer, dove si possono trovare maggiori informazioni anche su questa rete, la rete ECO. Noi adesso ci fermiamo, il traffico poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. I'm going home. There I am there in my bedroom. I'm safe and I'm snug and snoring. So glad to be there. I'm going home. None of this ever happened, but God, it really did happen. Still, nothing has changed. L'altra Europa, ora andiamo nell'altra Europa reale, quell'Europa poco raccontata, dove spesso invece osiamo buttare l'occhio per raccontare belle storie di rinascita, di cambiamento. Questa storia vede protagonista Irvin Mujicic, un giovane bosniaco che ha 5 anni, ha lasciato la propria terra a causa della guerra e ora Srebrenica sta tentando di aprire questa casa della natura. Ciao Irvin, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno, grazie mille. Intanto, che cos'è la casa della natura? Allora, che cos'è la casa della natura? La casa della natura è un concetto molto vecchio, nato nel 1890 a Vienna. Sì. Fu concepito su spinta del movimento operaio nel periodo di industrializzazione come risposta all'alienazione dell'essere umano dalla vita di città e di fabbrica. Quindi in un gruppo di piccole persone si misero a recuperare degli spazi che erano stati abbandonati nella natura, costruendo quelle che poi diventeranno le prime case della natura e fondando il movimento degli Amici della Natura, che oggi conta circa 1200 case in tutto quanto il mondo e 28 federazioni e circa 500.000 soci. E tu questa casa la stai costruendo sui resti, che, sui segni della guerra che la guerra ha lasciato a Srebrenica? Esatto, stiamo cercando di costruire questa casa a Srebrenica nell'ambito del progetto Srebrenica Città della Speranza, dove la casa della natura è il primo passo. La casa della natura verrà costruita sulle macerie della casa dei miei nonni, dove che è stata distrutta durante la guerra, cioè è stata parzialmente distrutta durante la guerra e poi abbiamo dovuto abbatterla nel dopoguerra. Tu Irvin, a 5 anni hai lasciato la Bosnia e sei venuto in Italia, giusto? A 5 anni, esattamente nel 16 aprile del 1992, ho lasciato Srebrenica il giorno prima che cadesse per la prima volta. Abbiamo passato 6 mesi nel centro della Bosnia, poi come profughi siamo andati in Croazia, abbiamo vissuto in un campo profughi per 1 anno, il 9 agosto del 93 siamo arrivati in Italia. Quindi sei cresciuto, hai vissuto in Italia fino a quanti anni? Circa 20 anni, perché poi ho incominciato a viaggiare, ho vissuto 1 anno in Egitto, 1 in Tunisia, 1 in Belgio, 2 anni e mezzo fa sono tornato. Perché quello era tipo 22-23 anni. Quello era l'obiettivo, quello era il sogno comunque, tornare. Sì, è sempre stato il mio sogno quello di ritornare a casa. Mi sono sempre trovato bene dappertutto, però c'è sempre stato qualcosa che mi mancava, c'è sempre stato qualcosa che mi riportava indietro verso la mia terra finché finalmente non sono riuscito a prendere la scelta di tornare. Che cos'è la Bosnia oggi per te? Oggi la Bosnia per me è tante cose. La Bosnia è una risorsa per la mia anima, in primis per farmi trovare pace, ma penso che sia anche una risorsa per il mondo intero. In qualche maniera la guerra di Bosnia è stato anche la fine di un certo periodo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi e ne ha dettato uno nuovo in Europa. In Bosnia è stato il fallimento delle Nazioni Unite che furono la risposta alla Seconda Guerra Mondiale e al nazismo. La Bosnia è tanto, è un'opportunità per tutta l'Europa. La Bosnia è la via di mezzo tra l'est e l'ovest. In Bosnia si incontrano le culture, si incontra l'est e l'ovest. Solo qui a Srebrenica abbiamo la chiesa ortodossa, quella cattolica e la moschea nel giro di 500 metri. È un miscuglio di culture storico che può dare tanto all'Europa sia in positivo che in negativo, dipende come la prendiamo e come la facciamo evolvere. Dipende da noi quale strada scegliamo, se quella dell'odio, quella della convivenza interetnica, del rispetto reciproco, del comprendere che le nostre differenze sono solo le più grandi ricchezze che abbiamo. E questa contaminazione si respirerà nella tua casa della natura. Che tempi ti sei dato? Entro quanto la vedremo questa casa? Allora, al momento abbiamo aperto un crowdfunding su Produzioni dal Basso, dove stiamo raccogliendo i fondi per costruire la casa. Il progetto si chiama Srebrenica City of Hope. Noi pensiamo per il prossimo anno di avere la casa della natura nuova. Intanto da quest'anno siamo riusciti a mettere a posto un'altra casa per poter iniziare a ospitare i primi gruppi di turisti. C'è un sito internet, una pagina Facebook, c'è un riferimento che ci vuoi dare per tutte le informazioni? Certo, c'è la pagina Facebook Srebrenica City of Hope, c'è la pagina del crowdfunding su Produzioni dal Basso che porta lo stesso nome. E per il momento si può controllare il sito degli Amici della Natura, www.amicidellanatura.it. Il nostro è ancora in fase di costruzione, siamo quasi quasi pronti per lanciarlo. Grazie davvero Irvin, un'ultima domanda, quanto è vicina o quanto è lontana l'Europa oggi da lì? L'Europa quanto è vicina, quanto è lontana? Una bella domanda, dipende quale Europa parliamo. Parliamo dell'Europa, quella degli ideali, come quelli di Spinelli, come risposta alla Seconda Guerra Mondiale, o parliamo dell'Europa dei sei paesi fondatori della comunità europea basata su base economica? Quella ideale è sempre presente, quella ideale c'è sempre nell'aria, perché alla fine l'Europa è un'idea, un sogno, un'emozione. Se parliamo di quell'Europa, qui questa emozione si può sentire molto molto molto forte. Grazie davvero Irvin, in bocca al lupo per il tuo progetto e buon lavoro. Crepi, grazie, ciao, buona ciao. Giornata. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra. Filippo Aureggi oggi alla parte tecnica, Claudia Scattone in assistenza, Silvia Righini e Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata. L'Altra Europa è radio24.it, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete contattarci, se avete progetti o iniziative da segnalarci, oppure Facebook e Twitter, lo sapete, sono i social dove potete trovarmi, chiocciola Federico Taddia. Ancora ciao, ancora buon sabato, ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao! L'Altra Europa.